Già nel dicembre 1916 ci furono proteste di donne nell'Empolese, nel Pisano e nel Pistoiese contro la guerra. In Lombardia più di 10.000 operaie tessili e lavoratrici delle manifatture tabacchi provenienti dalla periferia milanese, da Como, Lecco, Rho, Pavia e Monza marciarono verso il centro di Milano. Lungo il percorso ruppero i vetri delle fabbriche, distrussero le botteghe ed eressero barricate e si scontrarono con la forza pubblica. Conquistarono così Milano per 24 ore. Erano le donne le protagoniste delle lotte che si susseguirono nel 1917. Gli uomini erano in gran parte al fronte e nelle fabbriche, nei campi, erano rimaste solo le donne. Erano ben 198.000 le donne occupate nelle fabbriche che producevano armi e materiali per l'esercito. Questo portò a un aggravio delle condizioni di lavoro con orari più lunghi, ritmi più intensi e salari insufficienti a fronte di una crescente inflazione e di una grave carestia. Gli obiettivi delle lotte delle donne erano pace e pane, innanzitutto, ma anche la difesa dei propri diritti e salari adeguati all'inflazione. Anche a Brescia le donne delle fabbriche che producono i proiettili scesero in lotta. A Bologna, nell'aprile 1917, circa 600 operaie della manifattura tabacchi entrano in sciopero. Anche in Toscana, nel Chianti, alcune decine di contadine con una bandiera rossa manifestano contro la guerra, partono dall'Amole e raggiungono il municipio di Greve. Nell'estate del 1917, oltre 200 donne si radunarono sotto il municipio di Carmignano, inneggiando alla rivoluzione e chiedendo di sospendere la produzione di esplosivi della fabbrica Nobel. Ed ora ascoltiamo, cantata da Ginevra Di Marco, Amara terra mia. Sole alla valle, sole alla collina. Per le campagne Thank you. Le proteste e le manifestazioni, che inizialmente sono spontanee, diventarono sempre più organizzate e politicizzate. Tutti i simboli del potere, municipi e caserme furono assaltati, insieme ai negozi di alimentari. Nell'agosto del 1917 le donne di Torino attaccarono i furgoni dei fornai, coinvolgendo nelle manifestazioni gli operai delle fabbriche, scontrandosi con la forza pubblica ed erigendo barricate per alcuni giorni. Il bilancio fu pesante, alla fine si conteranno circa 50 morti. Gli uomini arrestati saranno immediatamente inviati al fronte. Il giornale L'Ordine Nuovo, pubblicato dalla componente più a sinistra del Partito Socialista, appoggerà le manifestazioni. Proteste, tumulti e manifestazioni si svolgono in tutta Italia. Oltre alle località già citate, saranno investite dalla protesta anche Novara, Alessandria, Roma, Rovigo, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Terni, Foggia, Bari, Sassari e Agrigento. Una rivolta, quella di cui voglio parlare più estesamente, avvenne nella Val di Bisenzio. In quella valle c'erano molte fabbriche tessili e filature, ma ci sono da tempo anche cooperative e associazioni sindacali. Qual era la situazione in quella valle? Ce la facciamo raccontare da Luisa Ciardi, una delle autrici della graphic novel 1917 Donne in marcia contro la guerra, a cura del Centro di Documentazione Storico-Etnografico che consiglio di leggere. Allora, il contesto economico della Val di Bisenzio dai primi Novecento all'inizio della Prima Guerra Mondiale è un contesto piuttosto avanzato, piuttosto industrializzato. La Val di Bisenzio si trova a nord della città di Prato, che già dalla fine dell'Ottocento ha lo sviluppo dell'industria tessile. Il fiume Bisenzio che attraversa la valle è proprio il motore di questa industria e infatti lungo il suo corso nascono le industrie specializzate appunto nella produzione tessile. In queste industrie, che diventano industrie ausiliarie durante la Prima Guerra Mondiale, lavorano tantissimi uomini che poi vengono richiamati al fronte. Le donne iniziano a entrare in fabbrica, iniziano a prendere il posto degli uomini che vengono richiamati al fronte e inizia il loro cammino di emancipazione per quanto riguarda i diritti, non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico, sindacale. Le donne infatti hanno ruoli particolari nelle fabbriche tessili, sono filatrici, sono orditrici e poi entrano anche in quelle che sono le professioni tipicamente maschili, per esempio in tessitura, che era il reparto storicamente più rosso, più sindacalizzato e politicizzato. Le condizioni di lavoro che trovano sono ovviamente condizioni terribili, sono condizioni peggiori rispetto a quelle che erano riusciti a guadagnarsi gli uomini fino a quel momento. La Val di Bisenzio è sempre stata comunque zona calda dal punto di vista degli scioperi e delle manifestazioni sindacali. Luisa Ciardi parla di fabbriche ausiliarie. Così venivano chiamate le fabbriche militarizzate. Infatti nella Val di Bisenzio venivano prodotte le uniformi dell'esercito. Dal novembre 1916 20 fabbriche della zona di Prato lavorano esclusivamente per l'esercito, arrivando a produrre più di 7 milioni di metri di panno per le divise. Chi lavorava in queste fabbriche era esonerato dal servizio militare, ma era militarizzato, costretto a mantenere ritmi massacranti. C'era una donna che lavorava nelle fabbriche tessili, una sindacalista che riuscì ad organizzare tutta la comunità operaia pratese in una battaglia eccezionale in quel periodo per adesioni e forza espressa, Teresa Meroni. Teresa Meroni nacque a Milano nel 1885 da una famiglia di operai e giovanissima si iscrisse al Partito Socialista. Si trasferì a Como e qui diventa una sindacalista molto attiva. Qui conobbe il sindacalista Battista Tentamanti, allora segretario della Camera del Lavoro di Como, che diventerà il suo compagno nella vita e nelle lotte. Nel 1915 Tentamanti viene inviato in Toscana come segretario della Lega Laniera di Vaiano, nella Val di Bisenzio, che era autonoma rispetto alle associazioni operaie pratesi. Teresa lo seguì. La Meroni divenne anche un punto di riferimento per la diffusione delle idee socialiste nella valle, contribuendo attivamente alla redazione del settimanale socialista locale Il Lavoro. La Val di Bisenzio era caratterizzata, oltre che dalle fabbriche tessili di cui abbiamo detto, nelle campagne dalla mezzatria. Teresa e Battista profusero un grande impegno nell'organizzare le lotte per migliori condizioni di lavoro e contro la guerra. A Vaiano, un gruppo di donne nell'aprile del 1915 scrisse un manifesto contro la guerra rivolto alle madri operaie, in cui possiamo leggere: «Insorgiamo, ribelliamoci. Non più la consueta preghiera e la ridicola rassegnazione. Preghiere e lacrime non valgono a nulla. Bisogna agire. Occorre scendere nelle piazze con i nostri uomini per imporre al governo borghese reazionario la nostra volontà e gridare agli eroi dell'armiamoci e partite no. Noi non vi daremo i nostri figli per condurli al macello per la gloria della patria. Compagne, il pericolo si avvicina. Gli scarti, i venduti, i rabagas di tutti i partiti tentano di sopraffarci e di indurre il governo ad abbandonare la neutralità e trascinare la nazione nell'immane carneficina europea. Sono i nostri compagni, i nostri figli che gli infami vogliono strappare al nostro affetto per gettarli sui campi della morte». Nel manifesto si parla dei rabagas di tutti i partiti. Rabagas è un'opera teatrale di Victorien Sardou, rappresentata per la prima volta nel 1872, che divenne molto popolare. È una satira del trasformismo politico e sulla mancanza di coerenza ideologica. Sardou critica l'ipocrisia dei leader che usano il populismo e la retorica rivoluzionaria solo come trampolino di lancio per la propria ascesa sociale e politica, per poi abbandonare i loro ideali non appena si presenta l'occasione. Ascoltiamoci quindi Addio Padre, Madre Addio di Renato Pozzetto. Addio Padre, Madre Addio, che per la guerra mi tocca di partire. Quanto fu triste la mia partenza, che per l'Italia mi tocca morire. Quando fui stato in terra austriaca, subito l'ordine a me l'arrivò. Mi dan l'assalto, la baionetta e canna, e addirittura un macello di vento. E fui colpito con una palla al petto, e i miei compagni li vedo a fuggire, ed io per terra rimasi costretto, mentre quel chiodo lo vedo venire. Fermati o chiodo che sto per morire, pensa una moglie che piange per me, ma quell'infame dal cuore crudele col suo pugnale morire mi fe. Poi altre mamme che soffrite così tanto per allevare la bella gioventù, nel cuor vi restano lacrime e pianto dei vostri figli che muore lassù. Siamo maledetti quei giovani studenti che hanno studiato guerra voluto, hanno gettato l'Italia nel lutto per 200 anni. Il 19 maggio 1915, qualche giorno prima dell'entrata in guerra dell'Italia a fianco dei paesi dell'intesa, Teresa Meroni tenne un comizio durante uno sciopero molto partecipato a Vaiano contro la guerra. Fu uno dei tanti comizi, manifestazioni e scioperi che ci furono in tutta la Val di Bisenzio contro la guerra.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. La mattina del 2 luglio 1917, nel paese di Luicciana, frazione di Cantagallo, nell'alta Val di Bisenzio, scoppiò la protesta contro la guerra e partì una marcia di 400 donne che volevano raggiungere Prato, in gran parte mezzadre contadine, per allargare anche alla città la protesta contro una guerra ingiusta e per rivendicare condizioni di vita e di lavoro dignitose. Molte delle partecipanti alla marcia verranno arrestate nei giorni successivi mentre stanno mietendo il grano. Contemporaneamente si verificarono proteste in altri paesi della Val di Bisenzio, come Vernio, dove tra il 2 e il 5 luglio le donne scesero in strada incitando gli abitanti a uscire dalle case e, come dissero, a segare il grano dei signori, minacciando di dare fuoco al comune. Per allertare la popolazione fecero suonare abusivamente le campane a fuoco. Il parroco, Don Giulio Mecci, si rifiutò di far suonare le campane e scappa di fronte alle donne inferocite. Il 2 luglio ci furono proteste anche a Vaiano, nella Bassa Valle, e le operaie dell'Alta Valle scesero per Dammanforte. Vaiano è il paese dove abita Teresa Meroni. Il delegato di pubblica sicurezza scriverà: nessun altro che la Meroni, la quale ha un grande ascendente sugli operai tutti, che le obbediscono ciecamente, poteva esserne la promotrice. La mattina gli operai dell'anificio Cavasciocchi non si erano presentati al lavoro. Le donne dell'Alta Val di Bisenzio si misero in marcia verso Vaiano, passando dal tappetificio Peyron di Mercatale di Vernio, dove lavoravano le contadine per lo più provenienti da Gricigliana, che erano entrate in fabbrica per colmare l'assenza degli uomini richiamati al fronte e che si unirono alla loro marcia. Poi si uniscono anche le operaie dell'anificio Romei di Carmignanello. Il 3 luglio, nel pomeriggio, i carabinieri di stanza Vaiano sbarrano la strada provinciale al termine del paese per impedire che i dimostranti si unissero ad altri provenienti dall'Alta Valle. Il corteo, che si ingrossò nei pressi di Coiano, riuscì a superare lo sbarramento dei cavalleggeri nei pressi di San Martino, dove però una decina di donne fu arrestata. La marcia riuscì comunque a raggiungere le carceri, dove furono liberate alcune donne fermate. Tra le donne che parteciparono alla manifestazione ci sono Tecla Bardassi e sua figlia Natalina Quercioli, che nei verbali di polizia vengono così descritte. Fra le più eccitate della dimostrazione sono accusate non solo di assembramento e protesta contro la guerra, ma anche di oltraggio al delegato di pubblica sicurezza e al vice brigadiere, che apostrofano con epiteti di bucaioli e vigliacchi. Non vengono arrestate immediatamente per evitare più gravi inconvenienti, ma il mese successivo vennero arrestate e condannate. Gli scontri a Vaiano proseguirono per tutto il pomeriggio del 3 luglio, con i carabinieri che contengono a fatica, come possiamo leggere nei verbali, una folla di 500 o 600 donne che si era assemblata all'estremità del paese con l'intento di arrivare a Prato e agitarsi. Poi, per fermare la protesta, verso le 8 di sera arrivarono da Prato i cavalleggeri, che però non riuscirono ad arrestarla. Le donne tentarono di rompere lo sbarramento a sassate. Alla loro testa c'è Teresa Meroni. A causa degli stretti sentieri, uno dei cavalli andò a sbattere contro un muro. Le donne, a gruppi, riescono comunque a oltrepassare lo sbarramento e a dirigersi verso Prato. Lungo la strada passano davanti alla grande fabbrica Forti della Briglia e anche lì altri operai e operaie si unirono alla marcia. Teresa Meroni, invece, che è sempre stata vista fronteggiare carabinieri e cavalleggeri, deve rapidamente fuggire da Vaiano la notte del 3 luglio. Lo stesso giorno altre donne della Val di Bisenzio tentarono di nuovo di raggiungere Prato. Alle porte della città trovarono un drappello di cavalleggeri a sbarrargli la strada, ma molte aggirarono il blocco per i campi lungo il fiume Bisenzio e riuscirono finalmente ad arrivare in piazza del municipio a Prato. Qui trovano il delegato di pubblica sicurezza che gli intimò di sciogliere l'assembramento, ma le donne arretrarono e poi ritornarono per continuare la protesta più forte di prima. Alcune di esse vengono arrestate, alcune sono giovanissime, come Ida Breschi e Irina Brachi. Nei verbali di arresto possiamo leggere: quelle donne che furono arrestate erano sempre le stesse che capeggiavano la dimostrazione e che guidavano i gruppi, che imponevano con grida e intimidazioni agli esercenti di chiudere i negozi. Perciò tutte quelle arrestate in piazza del Municipio e in piazza del Duomo debbono anche rispondere di tale violenza contro la libertà di commercio. Gran parte degli arresti, una ventina in totale, avvennero la mattina del 5 in piazza del Municipio. Le donne vennero immediatamente schedate al commissariato di pubblica sicurezza che si trovava proprio sotto il loggiato della piazza. Venne arrestata anche Rosa Cecchi, che ha solo 14 anni. Maria Polidori, di 21 anni, venne anche lei arrestata. Il suo fidanzato era morto al fronte il 10 maggio. Il 5 luglio le donne in marcia tagliano i fili del telegrafo. Nel verbale di polizia possiamo leggere: le donne suddette, mentre ritornavano da Vaiano, sempre a gruppi in località chiamata Fosso di Gricigliana, approfittando che ci fosse un palo assai inclinato, tagliarono in più punti il filo telefonico della linea Cantagallo-Vaiano, con lo scopo evidente di impedire alle autorità comunali di richiedere la presenza della forza pubblica. Alla fine furono più di 1500 le donne che si mobilitarono, molte delle quali giovanissime e con i figli al seguito. Ed ora ascoltiamo un canto contro la guerra dell'epoca: O Gorizia, tu sei maledetta. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane. Ognun si partì sotto l'acqua che cadeva al rovescio, grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Povigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini. Muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu. La protesta proseguì fino al 9 luglio, con sommosse diffuse dalla Val di Bisenzio sino alle porte di Pistoia. In totale furono arrestate 56 persone. Nell'agosto 1917 ci furono nuove agitazioni alla San Giorgio di Pistoia. Anche Teresa Meroni fu poi arrestata. Questa la sua dichiarazione in tribunale. Non è vero che io abbia organizzato e incitato le donne a fare le dimostrazioni dei primi di luglio. Gli operai della Val di Bisenzio cominciarono a scioperare il lunedì, mentre i primi assembramenti si ebbero il martedì. Se avessi avuto la capacità di organizzare tali grandiose dimostrazioni, me ne sentirei onorata. Io non ho incitato nessuno. Solamente quando vidi la gente in piazza che faceva le dimostrazioni contro la guerra, vi andai anche io e gridai pure io abbasso la guerra, poiché tale è il mio sentimento, dato che sono facente parte e capo dell'associazione Laniera di Vaiano e poiché ho quattro fratelli al fronte e il mio amico pure. Non ho oltraggiato l'ufficiale di cavalleria con la parola vigliacco, ma quando vidi che voleva far avanzare i cavalli addosso alle mie compagne dimostranti, gli gridai imboscato. Egli mi gettò in faccia un pugno di soldi, dandomi tal modo di puttana. Ho fatto e seguiterò sempre a fare propaganda contro la guerra. Teresa Meroni venne condannata a 3 mesi di prigione e 60 lire di multa. Dal punto di vista delle autorità di polizia, Teresa risultava un'agitatrice estremamente pericolosa perché la sua opera di propaganda scardinava i punti fondanti della mentalità del tempo, giustificando nell'immaginario collettivo l'idea che le donne potessero mettersi a capo della rivolta contro la guerra e pretendere un ruolo che non fosse subalterno come quello che le donne avevano avuto sino a quel momento. Dopo le manifestazioni, i reparti a cavallo furono inviati a pattugliare le località ritenute più calde della valle. In autunno venne inasprita con nuove leggi la già pesante normativa repressiva e vennero colpiti anche i reati di opinione contro la guerra, soprattutto dopo la disfatta di Caporetto. Fino al gennaio del 1918 Teresa Meroni continuò a incitare le donne della Val di Bisenzio a difendere i loro diritti, scrivendo che saranno le donne che diranno alla borghesia basta oscurantismo, basta ignoranza, basta pregiudizi, basta guerra. Ascoltiamoci ora la ninna nanna della guerra, canta Edmonda Aldini. Ninna nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie, tanti guai che succede non er mondo. Fra le spade, li fucili, degli popoli civili, della gente che se scanna per un matto che comanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza e a profitto de una fede per un Dio che non se vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è in gran giro dei quattrini, che prepara le risorse per gli ladri delle borse, fa la ninna cocco bello finché dura sto macello, fa la ninna che domani rivedremo li sovrani, che se scambieno la stima buoni amici come prima, so cugini e tra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali e il riuniti fra de loro senza l'ombra del rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. Te quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Il 16 febbraio 1918 a Teresa Meroni venne dato un foglio di via obbligatorio da Vaiano e fu costretta a trasferirsi a Livorno. Poi viene inviata a Castelnuovo Garfagnana in residenza coatta, dove rimane fino alla fine della guerra e dove rischiò di morire a causa di una grave malattia, probabilmente l'influenza spagnola. Tornerà in Val di Bisenzio solo nel gennaio 1919, riprendendo a lottare per i diritti dei lavoratori insieme al suo compagno Tettamanti, tornato dalla guerra. Con l'avvento del fascismo, l'attività politica e sindacale di Teresa Meroni fu fortemente limitata. Nonostante le difficoltà, però, mantenne la sua coerenza. Non furono mai lunghi né pacifici i periodi che Teresa Meroni e Battista Tettamanti riuscirono a trascorrere insieme. Come abbiamo visto, ci riuscirono dal 1912 al 1915, poi dal 1919 al 1921, poi nel 1943 e infine dal 1945 all'ottobre 1951, quando Teresa morì a Como. Persero il loro unico figlio, Vladimiro, nato nel 1920 sul fronte tunisino nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per chi volesse approfondire, c'è la graphic novel già citata 1917, Donne in marcia contro la guerra, a cura della Fondazione Centro di Documentazione Storico-Etnografica Val di Bisenzio e Montemurlo, di Marco Perna, Alessia Cecconi e Luisa Ciardi. Poi c'è un podcast fatto molto bene dal titolo Teresa e le altre della Fondazione CDSE, realizzato anche questo da Alessia Cecconi e Luisa Ciardi con la collaborazione di Simonetta Soldani e ascoltabile sulle principali piattaforme. Su YouTube è visibile un video dal titolo Prato e la Val di Bisenzio, dalla marcia delle donne alla Repubblica dei Soviet, realizzato da Cronache Ribelli. E poi ci sono alcuni libri. Di Alessandro Fortunati, Due vite, un ideale, Battista Tettamanti e Teresa Meroni. Di Marchi e Cintelli, Teresa Meroni e la marcia delle donne. A cura di Alessia Cecconi, la storia di Teresa Meroni, dalla marcia delle donne alla scuola di Carmignanello. Si conclude qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla marcia delle donne contro la guerra della Val di Bisenzio.